In quel tempo i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. Maestro, nella legge qual è il grande comandamento? Gli rispose, amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello. Amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Oggi il Signore ci presenta la sintesi di tutto il Vangelo, l'amore. Amare, amare Dio, amare il prossimo, amare se stessi. Ecco quello che dobbiamo fare ed ecco quello che è il significato proprio della nostra vita e della nostra esistenza. E sapete, Madre Teresa di Calcutta aveva sintetizzato questo insegnamento di Gesù con una parola, un acronimo, in inglese gioia si dice joy. Joy è scritto con la I lunga, la O e la Y greca. Allora, la I lunga sta per Jesus, Gesù. La O sta per others, gli altri. La Y greca sta per yourself, te stesso. Diceva Madre Teresa di Calcutta, se tu vuoi trovare gioia nella vita, è semplice, basta che tu metti Gesù al primo posto nell'amore, amare Dio quindi al primo posto. Poi others, gli altri, e poi yourself. Cioè, diceva praticamente che la gioia è dovuta proprio a questo ordine, mettere Dio al primo posto, poi gli altri e poi te stesso. Ed effettivamente, se voi ci provate, avrete la vera gioia. Allora, la parola di oggi ci vuole far scoprire non solo qual è il grande comandamento, ma qual è la grande gioia? Perché il comandamento e la gioia sono legati insieme. Tutto ciò che il Signore ce lo dice perché noi possiamo trovare gioia. Non ce lo dice per imporci un fardello sulle spalle, ma al contrario per darci la vera gioia. Allora, oggi proviamo a mettere Dio al primo posto, poi gli altri e poi noi stessi. E che cosa vuol dire questo? Mettere Dio al primo posto vuol dire innanzitutto non dire Signore, Signore, ma fare la volontà di Dio. E qual è la volontà di Dio? È che noi mettiamo in pratica l'amore. E volete sapere che cos'è l'amore? È molto semplice. Basta andare nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 13, San Paolo ci dà una spiegazione di che cosa sia l'amore. La carità è paziente, la carità è benigna, la carità non si adira, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Ecco, se vogliamo sapere che cosa vuol dire l'amore, andiamo a ripassarci l'inno della lettera di San Paolo, l'inno alla carità che si trova appunto nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 13. La carità è paziente, è benigna la carità, non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di interesse, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità, tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Meditiamo queste parole e cerchiamo veramente di mettere la volontà di Dio al primo posto, gli altri, serviamo gli altri attraverso appunto queste virtù che ci vengono suggerite da San Paolo e poi pensiamo anche a noi stessi e vedrete che veramente abbiamo il segreto della gioia perché l'amore e la gioia coincidono. Buona giornata!